Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Il tema, oltre diciamo altri approfondimenti, tra cui la nostra inchiesta che continua sull'Europa al bivio, quindi l'inchiesta che va a analizzare quello che sta capitando in Grecia nel doppio fronte confine macedone con invece anche Atene. In questo momento la rotta balcanica è completamente chiusa, ma ne parleremo più avanti. Dicevo, c'è un unico grande tema, alcuni l'hanno già battezzato il ritorno di Super Mario. Super Mario non è il videogame, ma è Mario Draghi, perché oggi a sorpresa, c'era chi se lo attendeva, ma forse ma c'era anche chi riteneva che Draghi avrebbe usato avrebbe adottato maggiore prudenza su questo. Invece un pacchetto di misure senza precedenti è quello che ha annunciato oggi la Banca Centrale Europea, che ha tagliato il tasso principale di rifinanziamento al minimo storico, e quindi zero, e ha tagliato anche il tasso sui depositi bancari, quindi rendendoli ancora più negativi, ancora meno conveniente, dallo 0,30 allo 0,40%. Il tasso sui prestiti marginali scende allo 0,25%. In aggiunta ha detto che la Banca Centrale Europea si aspetta che i tassi rimangano ai livelli attuali a lungo e ben oltre l'orizzonte temporale degli acquisti del quantitative easing. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, visto che dovrebbe finire teoricamente con settembre, probabilmente andrà più avanti, ma insomma questi tassi resteranno a lungo, da quello che capiamo noi, almeno un anno, se tanto ci dà tanto. I tassi, poi ho detto, non saranno sempre negativi. Ha anche aumentato gli acquisti di titoli di Stato, quindi il modo in cui la Banca Centrale Europea stampa euro, il famoso quantitative easing. Perché? Perché lo porta da 60 a 80 miliardi al mese, e quindi la Banca Centrale Europea acquista titoli di Stato e, facendo questo, per acquistarli emette, stampa moneta. Questo è il modo in cui anche la Federal Reserve ha stampato moneta per anni. Raggiungeremo appunto gli 80 miliardi di euro di acquisti al mese, e ha anche alzato dal 33% al 50% il limite di acquisizione per ogni singola emissione di obbligazioni, per cui prima poteva comprarne al massimo un terzo dell'intera emissione, adesso può comprarne fino a metà. Critica Mario Draghi. Beh, il dubbio, adesso nessuno a noi piace, non è un mistero, riteniamo che sia l'unico che ha avuto capacità di visione in un'Europa fatta di nani politici, però il rischio c'è. E qual è il rischio? Diciamolo tutto, poi ne parleremo per tutta la prima ora. E il rischio si chiama trappola di liquidità, ossia se tu emetti tanta liquidità, ma questa liquidità poi non viene assorbita, resta in giro, la dico male, ma per farmi capire, e rischia da un lato di creare bolle, perché se non va nei canali propri, e quindi nei prestiti alle imprese, nel far ripartire l'economia, quindi che non viene trasmessa poi dalle banche all'economia reale, resta in circolo e rischia di andare su canali tra virgolette impropri, cioè di aumentare, di creare bolle speculative. Ha il vantaggio comunque che tiene bassi i tassi di interesse, perché ovviamente quando l'acquista la Banca Centrale Europea i tassi resteranno bassi, non hai problemi a collocare sul mercato obbligazioni, titoli di Stato, quindi debito, e va benissimo questo per l'Italia. L'altro problema è il rischio di avere finito gli strumenti, e cioè si dice, attenzione, cosa potrà fare ancora la Banca Centrale Europea. Questi sono i due rischi nel medio termine: eccesso di liquidità, o meglio trappola della liquidità, per cui il famoso cavallo che deve bere non beve nonostante l'acqua gli dia, e quindi e magari beve qualcun altro che non dovrebbe. E l'altro aspetto è il fatto che poi sono sempre meno le cartucce a tua disposizione. Detto questo, la mossa è stata comunque, uno la voglia giudicare, una mossa importante. Le borse hanno reagito molto bene all'inizio, stanno tutte ripiegando adesso. Il FTSE MIB si mantiene ancora positivo, più 0,70, è arrivato a guadagnare il 4%, ma Parigi è meno 0,85, Francoforte è meno 1,36, Londra meno 0,55, non è coinvolta, Dow Jones meno 0,24%, euro quota 1,11. Continuano ad essere molto forti le banche, il Popolare di Milano più 5,80, Unicredit più 4,30 e il Risparmio Gestito Azimut più 3,80, Anima Holding più 3,20, Popolare Emilia Romagna più 2,90%, UbiBanca più 3 come Intesa San Paolo, Snam più 2,70 che non c'entra chiaramente con le banche. Invece troviamo Mediolanum più 2,30 come Mediobanca. Di negativo in questo momento sulla borsa c'è Iux Net-a-Porter meno 3,92%, Saipem è tornata in negativo meno 3,50% e anche Eni meno 2,5%. Non so dirvi quanto sia l'effetto del petrolio. Il petrolio oggi è un po' calato del 2%, ma si mantiene a 37,6 dollari al barile, cioè il livello tra i livelli più alti degli ultimi tre mesi. Alcuni mi fanno notare che sì, c'è il rischio, ma negli Stati Uniti ne valsa la pena. Beh, ne parleremo adesso, mi riferisco a Draghi. C'è un piccolo dettaglio, che negli Stati Uniti la banca centrale, la Federal Reserve, si è mossa sempre in totale sintonia con il governo centrale e quindi stampava moneta attraverso l'acquisto di titoli di Stato, stampava dollari, era arrivata fino a 120 miliardi di dollari al mese, però questi dollari venivano riassorbiti da una politica espansiva, investimenti in primo luogo, che investimenti anche pubblici, che si sono portati dietro anche gli investimenti privati. È ovvio che se il lato offerta di denaro non è accompagnato da un utilizzo poi di questo denaro, anche facendo ripartire gli investimenti in Europa, il rischio che resti tanta liquidità che non va è un rischio che c'è. Però non si può chiedere a Draghi di mettersi al posto della Commissione Europea, almeno questo concediamoglielo. 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, notizie in breve, poi avremo una pagina più ampia nella seconda ora. In Germania il surplus commerciale, la differenza tra export e import, resta assolutamente positivo, ma cala 18,9 miliardi perché è calato leggermente l'export dello 0,5%. Il Dieselgate invece, restiamo in Germania, sta avendo i suoi effetti sul colosso Volkswagen, che ha annunciato il taglio di 3.000 posti di lavoro entro il 2017 nell'amministrazione. Grazie alle garanzie sul lavoro, però nessuno dovrebbe temere di restare disoccupato. E poi il tema della rotta balcanica, la Grecia è molto irritata dal tweet del presidente Tusk, del Consiglio Europeo Tusk, secondo cui c'è stata una decisione a 28 sullo stop alla rotta balcanica. Infatti il ministro dell'immigrazione greco Ioannis Mouzoulas, la Grecia viene al Consiglio Europeo per chiedere un'Europa unita dove le decisioni cercano di fornire soluzioni in modo unito senza azioni unilaterali. Non c'è motivo di ringraziare gli Stati membri che hanno violato le decisioni dell'Unione Europea procedendo con azioni unilaterali che hanno fallito nel dare una soluzione aggravando il problema. E poi l'Unione Europea dice di essere consapevole che a questo punto il rischio rotta dei migranti si trasferisca sull'Adriatico. Devo dire che è stato uno spettacolo non edificante. Prima hanno lasciato che i Paesi membri, penso all'Austria in primo luogo, oltre che la Slovenia, chiudessero le loro frontiere. A cascata ne hanno chiuse anche gli altri, quindi Serbia e Macedonia. La Grecia non può chiudere le frontiere come non può chiudere l'Italia, perché c'è il mare, piccolo dettaglio. E se l'Europa deve essere si salvi chi può, non è in Europa. Dopodiché il Consiglio Europeo, invece che sanzionare i paesi, ha preso atto della chiusura della rotta balcanica, di fatto, Vabbè, cosa volete che vi dica su questa Europa? Parleremo nella seconda ora anche del caso dell'olio tunisino, che ripeto, nasce come elemento per aiutare la Tunisia, quindi nella lotta al terrorismo dopo l'attentato, in particolar modo dopo l'attentato al Bardo. Però ci si chiede, ci siamo chiesti anche noi, perché non utilizzare altri strumenti, magari un aiuto anche diretto alle imprese tunisine. L'importazione di 35.000 tonnellate per due anni, quest'anno e l'anno prossimo, senza dazi, dà un vantaggio ai tunisini, dà un vantaggio anche alle aziende che possono farlo finché non cambiamo la normativa, ma insomma, che utilizzano olio tunisino e lo spacciano per olio spagnolo, olio italiano. Però insomma, si potevano trovare altre strade. Comunque ne parleremo. Due notizie prima di arrivare al tema di apertura. Ancora oggi il Tesoro ha collocato BOT a un anno per 6 miliardi di euro, il tasso è calato a meno 0,068%, quindi sono rendimenti negativi, assegnati titoli appunto per 6 miliardi, in aumento la domanda, molto buona, 1,6 volte l'offerta. E poi il dato positivo ribadito oggi dall'Istat sulla disoccupazione, che per la prima volta è calata per la prima volta da 7 anni a questa parte. Anche qui ribadiamo, uno può pensarla come vuole sul governo, ma non può tifare contro l'Italia, a mio avviso. Per cui, se la disoccupazione certificata dall'Istat dopo 7 anni che continua inesorabilmente a calare cala dal 12,7 della media del 2014 all'11,9, è una disoccupazione ancora alta, è quasi doppia rispetto a quella precedente alla crisi, che viaggiava tra il 6 e 6,5%, ma è la prima volta che cala dopo 7 anni, in maniera significativa, perché insomma 203.000 disoccupati in meno sono il 6,3% in meno come raffronto, ossia si va dal 12,7 di disoccupati tra chi cerca lavoro all'11,9%. Anche gli occupati sono saliti di 186.000 unità, più 0,8%. La disoccupazione giovanile, che pure resta altissima al 40,3%, è scesa anche in questo caso per la prima volta da 7 anni, dal 2007, e è scesa al 40,3%. E oggi qui al Sole 24 Ore si è tenuto l'annuale Global CEO Survey di PricewaterhouseCoopers, a cui hanno partecipato vari amministratori delegati. Devo dire che di imprese italiane il 55% prevede un miglioramento della crescita economica mondiale entro l'anno, il 92% vede ricavi in aumento a tre anni addirittura sono il 97% gli amministratori delegati che vedono ricavi in aumento. Anche questo, cioè, è quello che è emerso dal sondaggio condotto e oggi presentato nel corso dell'evento appunto annuale, che va a interrogare i numeri uno delle principali aziende italiane. Due notizie ancora che riguardano sempre il nostro paese: lo shopping, gli acquisti della Lavazza. La Lavazza ha acquistato Carte Noire, che è leader in Francia nel mercato del caffè. L'operazione è stata firmata il 29 febbraio, ma annunciata oggi a Parigi. Sono i marchi appunto attività di Carte Noire all'interno dell'area economica europea. Il fatturato del gruppo salirà quindi dell'8%. O meglio, è già salito nel 2015 dell'8% e supera 1,4 miliardi. Per il 2016 si prevede di arrivare a quota 1,7 miliardi per il gruppo Lavazza. Il valore dell'operazione vale 700 milioni di euro. È stata finanziata da 4 banche, Unicredit, Intesa San Paolo, BNP Paribas e Rabobank, per un totale di 400 milioni di euro di finanziamento. Un'altra operazione che vede sempre uno shopping italiano all'estero, mi riferisco a Stevanato, che è il gruppo di Piombino Desio, in provincia di Padova, produce contenitori in vetro soprattutto per uso farmaceutico. Ha comprato per quasi 100 milioni di euro, debito incluso, le attività operative della tedesca Balda, che a sua volta opera nello stesso comparto, più che altro con soluzioni di plastica. La capogruppo Balda, quotata a Francoforte dopo la cessione, cambierà nome in Claire, mentre il marchio Balda resterà alla Stevanato. E quindi ogni tanto anche noi facciamo shopping all'estero. Come va la borsa? Adesso ha girato in negativo anche Milano e sta peggiorando tutta la borsa, eh? Oggi è una giornata sull'otto volante, meno 1,33% Parigi, meno 2% Francoforte e meno 1% Londra, che non è coinvolta, meno 0,60% l'America. L'America non ha certo dato una mano, ma vediamo ridursi di molto i rialzi dei titoli bancari. Partiamo allora col primo tema, tema di tutta la prima ora. Mario Draghi a sorpresa, iniziativa molto forte sia sui tassi di interesse sia sull'acquisto di titoli di Stato e quindi stampaggio di euro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. No, non siamo partiti, rispondo alcuni ascoltatori, non siamo partiti con gli aspetti negativi, abbiamo messo in guardia, nel senso che pur difendendo da sempre Mario Draghi, come in tutte le mosse, non è che la strada maestra sia una e unica, ci possono essere dei rischi anche in questo caso. Ma iniziamo con Draghi, con l'annuncio, tassi giù ben oltre l'orizzonte della del quantitative easing, quindi al di là di quello che sarà l'acquisto di titoli di Stato e lo stampaggio di euro, e tassi giù a sorpresa. The Governing Council has decided on a set of measures in the pursuit of its price stability objective. Il Consiglio direttivo ha deciso una serie di misure con lo scopo di perseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Primo, per ciò che riguarda i tassi di interesse, abbiamo deciso di tagliare il tasso principale di interesse di 5 punti base, portandolo a zero. Abbiamo deciso di ridurre anche il tasso sui prestiti marginali di 5 punti base a 0,25%. Il tasso sui depositi, invece, è stato tagliato di 10 punti base ed è ora a meno 0,4%. I tassi di interesse resteranno bassi, molto bassi, per un esteso periodo di tempo e comunque ben oltre il termine attuale del programma di acquisti. Very low for a long period of time and well past the horizon of our purchases. E poi l'operazione, dicevo, sui quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli di Stato, tra l'altro anche le obbligazioni emesse dalle aziende non finanziarie, quindi non dalle banche, potranno essere comprate dalla Banca Centrale Europea, purché abbiano un voto, un rating a livello di investimento, quello che si chiama investment grade. E anche questo è importante, perché laddove fosse possibile vorrebbe dire iniettare liquidità direttamente sulle aziende senza passare per il mondo bancario. Raggiungeremo l'obiettivo di 80 miliardi di acquisti. Il limite di acquisti per ogni singola emissione di titoli di Stato di un paese dell'area euro sale dal 33%, cioè da un terzo come limite massimo, alla metà. We decided to expand the monthly purchases under our Asset Purchase Program. Abbiamo deciso di espandere gli acquisti mensili del nostro programma di acquisti di titoli da 60 a 80 miliardi di euro. Il piano di acquisti di titoli proseguirà fino a marzo 2017 o anche oltre se necessario. E in ogni caso, fino a quando vedremo una sostenuta risalita della dinamica di inflazione a valori coerenti con gli obiettivi di un'inflazione sotto, ma vicina al 2% nel medio termine. Abbiamo anche alzato dal 33 al 50% il limite acquistabile di ciascuna singola emissione di bond attraverso il quantitative easing. Abbiamo anche deciso di ampliare la gamma di titoli coinvolti, includendo negli acquisti anche bond di emittenti non bancarie con un rating pari all'investment grade. That are eligible for regular purchases under a new corporate sector purchase program. Allora, Alessandro Merli, corrispondente sulle 24 ore da Francoforte. Buonasera Alessandro. Buonasera. Alziamo un attimo il livello di Merli perché lo sento un po' basso. Ringrazio anche per averci raggiunto in collegamento. Da un lato il professor Franco Bruni, che insegna economia monetaria alla Bocconi di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Lei tra l'altro nel 2010 pubblicò un libro, se non ricordo male, L'acqua e la spugna, i guai della troppa moneta. Oggi sì. Potete anche ripubblicarlo oggi come tema. E grazie anche all'editorialista del Sole 24 Ore, nonché docente di politiche monetarie alla Bocconi di Milano, Donato Masciandaro. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Allora, prima di tutto vorrei ascoltare Alessandro Merli per capire se, insomma, tu sai che qui chi parla è un grande tifoso di Mario Draghi, non lo nascondo mai. La mossa è sicuramente una mossa più forte delle attese. Ha anche detto Draghi, immaginate se non avessimo fatto niente, se avessimo incrociato le braccia dicendo nein zu allen, no a qualunque cosa. Lì a Weidmann gli sono fischiate le orecchie e anche a Schäuble forse. Oggi ci ritroveremo con una situazione che sarebbe disastrosa. È stata una risposta molto forte anche alle critiche che erano arrivate dalla Germania, penso alle casse di risparmio territoriali, Alessandro? Ma ci sarà un impatto sulle banche di queste misure, non c'è dubbio. Draghi ha tenuto a precisare che alcune banche forse soffriranno più di altre, però nella media ha anche citato una serie di dati, anzi li ha citati il suo vicepresidente Vito Costanzo, secondo cui nel 2015, quando già i tassi erano negativi per tutto l'anno, parlo dei tassi dei depositi sui depositi delle banche presso la BCE, in realtà il margine di interesse delle banche non si è poi ridotto, quindi diciamo, modo di vedere la BCE, le banche protestano molto, ma in realtà l'impatto effettivo non è stato così pesante. In ogni caso la BCE a questo punto ha ridotto a zero il tasso a cui rifinanzia normalmente le banche, ha addirittura concesso alle banche che prestano soldi all'economia reale di rifinanziarsi a 4 anni, quindi superando tutta l'incertezza che c'è stata in questo periodo, la volatilità, finanziarsi a 4 anni, e se avranno prestato a sufficienza all'economia reale riceveranno addirittura, chiamiamolo così, un rimborso dalla BCE pari a 40 punti base, quindi in qualche modo quello che avevano detto prima della conferenza stampa di oggi, che si sarebbe cercato di mitigare l'impatto sulle banche, questo senza dubbio è stato fatto. Poi in un'altra occasione Draghi ha detto: noi abbiamo come mandato quello di assicurare la stabilità dei prezzi e stiamo in questo momento davanti a un periodo di inflazione negativa per diversi mesi. Come dicevi tu, se la BCE non facesse niente probabilmente entreremmo anche in una deflazione. Sì, quindi diciamo che lui non si deve occupare tanto della redditività delle banche quanto di assicurare il suo mandato, che è abbastanza difficile da raggiungere anche nelle condizioni attuali, tant'è vero che la BCE oggi fa delle previsioni per il 2018, sta all'1,6%, quindi l'inflazione. Ancora di sotto del livello dell'inflazione. Quindi ancora sotto il livello del 2% considerato ottimale. Dopo il metro pubblicità vorrei partire da questo ragionamento di quanto appena detto Alessandro Merli, sia con il professor Masciandaro che il professor Bruni, perché adesso è anche mio compito, pur ritenendo appunto Draghi l'unico lungimirante in questi anni, i rischi vanno messi in evidenza. Il rischio della trappola di liquidità, ossia di un eccesso di liquidità che non ha effetto, rischi di creare una bolla e rischio dell'esaurimento delle cartucce. Dopo il meteo, la risposta. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, poi commenteremo anche la borsa che ha girato, insomma, dopo una fiammata iniziale, però non vorrei restare solo sulla cronaca minuto per minuto, ma sulle prospettive. Professor Bruni, visto che lei ha scritto il libro L'acqua, la spugna e i guai della troppa moneta, c'è questo rischio? Siamo noi, diciamo, che mettiamo le mani avanti perché siamo un po' sempre prudenti, il rischio che dopo queste misure non ci siano più altre misure, o meglio che l'efficacia delle prossime sia molto debole e il rischio cosiddetto della trappola di della liquidità, se non va nei canali giusti, crea un eccesso di liquidità e forse il rischio bolla? Sì, c'è senz'altro questo rischio e c'è anche il rischio che queste misure, come le altre prese da altre banche centrali, diano l'impressione che le banche centrali possano essere la soluzione, quindi in qualche modo disincentivino i governi dal prendere le altre misure che servirebbero di più a far crescere l'economia nel lungo periodo. Detto questo, però, Draghi non credo che abbia fatto male. Draghi ha delle regole da rispettare, e la banca centrale è, come si dice, rule based, è basata sulle regole, non è un burocrate che fa diciamo quello che gli pare, ma deve seguire certe. Abbiamo un'inflazione che è largamente inferiore all'obiettivo, e l'obiettivo fa parte della regola, qualche cosa doveva fare, e le cose che ha fatto nel complesso sono fatte, diciamo così, fra virgolette, molto bene, cioè ha in sostanza trascurato questa lobbying delle banche che diceva se voi abbassate ancora i tassi negativi ci date fastidio al conto economico, ed è andato piatto su un aumento del QE come c'è stato, e poi soprattutto questi target, questi nuovi loans a 4 anni che effettivamente sfruttano al meglio il fatto che in Europa la canalizzazione della politica monetaria avviene tramite le banche, e quindi diciamo questo può essere interessante. Io, come dico, il giudizio su Draghi va dato in due tempi: il primo tempo guardando alle regole che ci sono e a quello che lui poteva fare, il secondo tempo è se si potessero cambiare le regole, io farei in modo che le banche centrali si tirino un filo indietro e responsabilizzino di più gli altri decisori, che invece sono latitanti. Mi scusi, per far capire tutto in una battuta, però, Bruni, perché c'era questa resistenza del mondo bancario, anche e soprattutto tedesco? Ma perché c'è questo problema della curva dei tassi. Le banche attribuiscono più o meno giustamente al fatto che il quantitative easing appiattisce la struttura dei tassi, cioè riduce la differenza fra i tassi a lunga e i tassi a breve, attribuiscono a questo fatto il fatto che il loro conto economico non è quello che vorrebbero, perché non riescono a praticare una differenza tra tassi a breve e tassi a lunghe, guadagnare sui margini, il loro business model basato su questa differenza, comprendere il denaro più a breve e prestarlo più a lungo. Ora, questo può spiegare alcune delle resistenze, ma certamente non è alla base di una crisi bancaria. Ma poi possono cambiare anche il business model delle banche, è comodo perché comprarlo. Ecco, è troppo comodo comprarlo con tassi bassissimi a breve, prestarlo con tassi più alti a lungo, capito che guadagni, ma qui il problema non è quanto guadagnano le banche, è casomai come si mettono, cosa faranno le sofferenze, quelle italiane, ma non solo, anche quelle tedesche, e come tornano a prestare soldi all'economia. Professor Masciandaro, visto che lei è anche un grande conoscitore ed esperto del mondo bancario, io sto parlando dei rischi. Certo che uno potrebbe obiettarmi, se Draghi non avesse fatto questo, come ricordava Alessandro Merli prima, chissà dove saremmo come deflazione. Sono più i rischi, mettiamolo così, arrivati a questo punto, o comunque sono più forti ancora i vantaggi? Avendo ascoltato Draghi, io non so se essere più tranquillo o più preoccupato, perché il quadro che ha dato Draghi è di un sistema che sta rallentando di nuovo. Le proiezioni già ricordate dal dottor Merli sono tutte peggiorate, e quindi questo significa che gli obiettivi sono ancora più lontani. E il professor Bruni prima ricordava che Draghi doveva fare qualcosa, e devo dire che ha dato una scossa. Quello da capire è quale sarà l'effetto di questa scossa, perché purtroppo in questa situazione in cui dalla politica monetaria si è preteso troppo, secondo alcuni, e questa è la strada che ha preso Draghi, per dare la scossa bisogna fare espansioni monetarie sempre più aggressive. Sì, questa è una strada, la Banca Centrale ormai la sta percorrendo. Il problema è che quantomeno il gatto che rimbalza morto è morto, tanto più chi ritiene che la strada sia un'altra, cioè normalizzare il sistema, avrà sempre più voci in capitolo. Insomma, quello che io voglio dire è che Draghi ha dato una scossa e anch'io sono convinto che ha fatto bene a darla. Su quello che succederà siamo veramente in territori non conosciuti. Mi lasci dire due cose sui mercati finanziari e sulle banche. I mercati finanziari ormai, data una notizia, possiamo solo capire se è rilevante o meno, nel senso che si muovono. La direzione ormai è completamente imprevedibile, sì, stocastica, perché ormai ci sono scommettitori da tutti e due i lati del tavolo. Per quel che riguarda le banche, questa manovra, ma l'unico commento che mi viene è che se si lamentano, scusi, non è anglosassone, è un chiagne fotti. Da un lato i tassi si sono abbassati, ma dall'altro lato le opportunità di finanziarsi a tassi zeri, addirittura con rimborsi. Di nuovo ricordo quello che ha già ricordato il dottor Merli. Insomma, non c'è niente da lamentarsi dopo questa manovra. No, nel senso che uno vuole tutto dalla vita, però insomma adesso deve lamentarsi l'economia reale se non ha questi trasferimenti, devono lamentarsi le imprese e i cittadini che non vedono aumentare il potere d'acquisto e di conseguenza l'inflazione. Auguri, quando torneremo ad avere un po' di buona inflazione, ripeto, come il colesterolo l'inflazione, mettiamola così, c'è anche quella buona, non è solo negativa, e questo è l'obiettivo della BCE. Vorrei capire, dopo il traffico con Alessandro Merli, però, se la lettura possa anche essere, vabbè, Draghi ha fatto quello che poteva fare. C'è una nota durissima adesso che arriva dalla Germania, dal presidente dell'istituto tedesco IFO, che è uno dei principali istituti economici tedeschi, che dice la BCE dando crediti di lunga scadenza alle banche a rischio fallimento del Sud Europa, ma perché non si occupa di Deutsche Bank, di Commerzbank, vabbè, le banche a rischio fallimento del Sud Europa a un tasso negativo dello 0,4 dimostra ancora una volta che la BCE porta avanti una politica fiscale della redistribuzione per il salvataggio di banche zombie e stati vicini al fallimento. Io non so cosa sia fumato Werner Sinn, ma insomma, quali sono gli stati vicini al fallimento, o ce lo dica che siamo noi, e quali sono le banche zombie, perché a me risulta che Deutsche Bank abbia in pancia ancora qualche derivato di quelli tossici. Oggi non votava Weidmann perché votano a rotazione i vari consiglieri, però Alessandro, dopo il traffico, non è che Draghi abbia definitivamente buttato la palla nel campo della politica, detto, io ho fatto tutto il possibile, ormai ho preso misure straordinarie, nemmeno attese, se non fate le riforme, se non decidete di impostare le politiche economiche in un altro modo, a questo punto la colpa è vostra. Dopo il traffico, la risposta. Focus Economia. Alessandro Merli, la risposta. Draghi ha definitivamente gettato la palla nel campo della politica europea, del piano Juncker, del famoso elicottero, per ricordare Bernanke, quello che dovrebbe lanciare i dollari sopra le città e i paesi per far ripartire l'economia? Ma Draghi da un po' che prova a rilanciare la palla, il problema è che sta palla poi ritorna sempre un po' morta e ritorna sempre dalla sua parte, più una partita a tennis questa qua, mi sembra che però una partita a tennis contro un muro, nel senso che quando ci si allena contro il muro qualsiasi cosa tu mandi di là te lo rimanda sempre indietro. Per cui mi sembra che fino adesso questi appelli ripetuti di Draghi ai governi, ai politici a fare qualcosa, mi sembra che siano rimasti un po' inascoltati, l'ho detto fra le righe anche lui oggi questa cosa. Poi ha detto vabbè, la politica fiscale adesso è moderatamente espansionista, bisogna vedere se questo moderatamente è sufficiente ad avere qualche, il che è meglio che neutrale come era l'anno scorso, però bisogna vedere se è sufficiente questa politica di bilancio moderatamente espansiva effettivamente a smuovere qualcosa. Anche i paesi che hanno ampie disponibilità per fare una politica fiscale espansiva non la fanno, non la vogliono fare, o per ragioni pregiudiziali oppure perché hanno delle altre delle altre idee per la testa, quindi effettivamente questo muro che si trova davanti ai Draghi un po' gli ritorna sempre dietro sta palla e alla fine è poi sempre lui che deve continuare a raccoglierlo, ma non mi sembra che da questo punto di vista stia facendo molti progressi. Beh, l'immagine di un Draghi che gioca a tennis da solo, nel senso che cerca di buttare la palla ma a un muro, è un'immagine a mio avviso perfetta per quello che sta avvenendo. Vorrei sapere, inizio con Bruni, poi magari continuiamo dopo il GR24 anche con il professor Masciandaro, cosa ne pensate? Cioè, uno può criticare, come fanno alcuni ascoltatori, dire non servirà niente questo continuo calo dei tassi di interesse, i tassi in negativo, ormai i collocamenti, il bot a un anno di oggi collocato per 6 miliardi, tutto in negativo, qua stiamo solo stampando moneta e prolungando l'agonia. Oppure uno può dire, beh, a questo punto Draghi continua insistentemente a chiedere all'Europa, alla parte politica dell'Europa, di svegliarsi e di capire che lui l'ha messa nelle condizioni migliori possibili. Bruni? Sì, bisogna continuare a insistere, però il modo più efficace per insistere sarebbe se le banche centrali tutte insieme si mettessero d'accordo a dire adesso basta, normalizziamo le cose e noi abbiamo finito il nostro lavoro, abbiamo comprato un sacco di tempo e di più non ve ne compriamo, teniamo la situazione così, gradualmente rientriamo nella normalità e ci aspettiamo che le politiche economiche migliorino, insomma, e facciano qualcosa. Basta vedere l'ultimo G20 che non ha nemmeno lui deciso nulla. Ho l'impressione che in Europa però per prendere una decisione del genere occorrano anche cambiare un po' le regole, perché effettivamente oggi come farebbe la Banca Centrale a non procedere a espansioni con un obiettivo di inflazione formulato come ha formulato e con l'inflazione che è quella che è. E purtroppo ho l'impressione che sia una trappola anche quella per Draghi, bisogna che prima o poi cerchiamo di liberarcene, perché abbiamo capito che l'inflazione non si riesce a influenzarla in su con la moneta. Scusi Bruni, ma non sarebbe anche più semplice dire che, come è avvenuto negli Stati Uniti, occorrerebbe un piano di investimenti europeo? Cioè questi soldi poi devono essere virtuosi, devono entrare in un piano di investimenti. In America questo è successo, cioè non è che la Fed stampava dollari comprando titoli di Stato e si sia creata nessuna bolla, andavano anche soprattutto in un piano di rilancio dell'economia complessivo. Non è questo che manca, Bruni? Ma si può fare, cioè la liquidità c'è, che se i governi mettono in piedi un piano di investimento non è che gli mancherà il finanziamento, per carità di Dio, non c'è mica bisogno che Draghi li ripassi direttamente. Di liquidità in giro ce n'è finché se ne vuole. Il problema è che questi governi non sono capaci di mettere in piedi il piano di investimento, non ci sono i progetti di investimento, i paesi se li litigano uno per altro, vogliono essere sicuri che il primo sia loro e non quello dell'altro, e questo è il problema. Non è la storia dell'helicopter money è una barzelletta, non ha nessun senso. La money è là è per la strada, che chi la vuole la raccoglie e la spenda come si deve. Quindi lei dice non avrebbe, anche lanciare soldi dall'elicottero, la famosa frase di Friedman poi ripresa da Bernanke, non avrebbe senso perché già ci sono questi soldi, sono già piovuti questi soldi. Professor Masciandaro, vorrei sentire anche la sua opinione dopo il GR24. Intanto ringrazio Alessandro Melli da un lato e il professor Franco Bruni dall'altro. GR24 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. L'Europa al bivio greco con Radio 24 nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Focus Economia. 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per concludere l'approfondimento sulla decisione, appunto ormai molto commentata, di Mario Draghi, mandando anche oltre. Professor Masciandaro, la domanda è anche per lei. Alessandro Melli, con questa immagine a mio avviso molto, molto chiara, ha detto sì, Draghi sta cercando di buttare la palla alla politica e quindi ha fatto un'altra mossa sorpresa ancora più forte di quanto si attendesse, oltre alla riduzione dei tassi, l'aumento degli acquisti di titoli di Stato, l'aumento della soglia di quanto la BCE può comprare di ogni emissione dal 33% al 50%, 80 miliardi al mese, non più 60, e ha detto che questi tassi negativi resteranno a lungo e ha ributtato la palla, diciamo, alla politica. Alessandro Melli diceva con un'immagine forte, insomma, sì, però, o efficace più che forte, è un po' come se Draghi giocasse a tennis contro un muro, perché la pallina gli ritorna ogni volta nel suo campo. Volevo sapere intanto se lei è d'accordo su questo e se però a Draghi possa avere altri strumenti a questo punto di carattere più politico. Vedo adesso una dichiarazione durissima, non solo del presidente dell'IFO, l'abbiamo già letta, i tedeschi stanno veramente masticando amaro, ma del presidente della Confederazione delle Sparche Casse, diciamo le casse di risparmio tedesche, che invece che raccontarci come diciamo, sono state salvate in questi anni dal governo centrale, perché molte di queste erano in difficoltà, anche in questo caso per i rapporti con la politica del territorio, con i poteri del territorio, in tutto il mondo e paese, ci dice che l'accelerazione dell'acquisto di titoli di Stato, deciso oggi da Draghi, aumenta la dose di veleno. Le banche centrali diventano le maggiori creditrici dei loro stati. Le misure sono espressione di una ricerca disperata della BCE di dare sempre più stimoli al mercato, ma non sono più necessarie. Sarebbe stato meglio attendere gli esiti dei provvedimenti di dicembre. Quindi va bene se vi salva il governo tedesco, non va bene se salva la BCE. Ma al di là della battuta, Masciandaro, c'è questa difficoltà a buttare la pallina dall'altra parte? Certo che c'è la difficoltà, perché quello che sta succedendo è che Draghi ha fatto una scelta qualche mese fa, nel senso, come si combatte la trappola della liquidità? Allora, ci sono la trappola di liquidità che lei ha citato, è qualcosa che blocca due centri nervosi, il centro nervoso finanziario e il centro nervoso monetario. È servito quello che ha fatto Draghi? Allora, se noi ascoltiamo Draghi, Draghi dice certo che è servito, perché il centro nervoso finanziario, quello bancario, si è rimesso in movimento. Cosa dicono i critici di Draghi, tipo il collega tedesco Sinn? Dice, guardano l'altro centro nervoso, quello dell'economia reale, non vedono niente e dicono allora è stato inutile. Quindi che cosa possiamo dire? Quello che possiamo dire è che almeno un centro nervoso si è rimesso in moto, questo nessuno può negarlo. A questo punto la scommessa è che questa seconda scossa metta in moto anche il secondo. Quindi il rischio è quello che diceva il dottor Merli, che se continuiamo a vedere Draghi come qualcuno che butta la palla contro il muro, beh, avranno sempre più voce coloro che ritengono che la strada presa da Draghi sia stata quella sbagliata. Sì, però il muro è costituito spesso da chi critica Draghi, cioè chi invece riceve la palla non la vuole nemmeno ricevere. Voglio dire, noi potremmo, è vero che l'economia reale non è ripartita nonostante queste fortissime iniezioni, però noi non abbiamo l'onere della prova contraria, nel senso che è come se uno prendesse una medicina che gli abbassa la febbre da 41 a 39. Ora tu puoi dire che uno ha ancora molta febbre, però non puoi sapere cosa sarebbe successo se non avessi avuto questa medicina. Ma assolutamente, quello, scusi se la interrompo. Prego, prego. È quello che oggi Draghi, secondo me, ha ribadito anche con forza la necessità, il valore di quello che è stato fatto, almeno rispetto a uno dei due centri nervosi, perché ha detto se avessimo fatto il contrario, il paziente sarebbe morto. Quello credo che sia evidente che sono le altre politiche che sono immobili, perché al di là degli estremisti come il collega tedesco Sinn, i due classi i due classici economisti, il monetarista e il keynesiano, oggi si troverebbero d'accordo nel dire che dalla politica monetaria non si può pretendere tutto. Troppo, forse ha dato tutto, sono gli altri che sono fermi, su questo... No, ma io non vorrei mai che nel giochetto delle ipocrisie venisse fuori questo scenario, cioè... Draghi fa il possibile, però da solo non basta il lato dell'offerta, occorre che qualcuno questi soldi li prenda, occorre la domanda e li utilizzi. Bruxelles non si muove, resta ancorata a questa fuffa del piano Juncker, sì, un miliardo per l'Italia, non muoverà nulla. Chiaramente questo piano non sviluppa i suoi effetti, perché dare i soldi, ma se non vanno poi all'economia reale, se non ci sono investimenti, a investimenti anche pubblici, serve a poco. E alla fine si dice: vedi che Draghi ha sbagliato, no? Che è nel senso che è come far prendere la medicina a tuo figlio, però poi tenerlo diciamo svestito sulla neve e dire: però la broncopolmite non è terminata. Ho capito, non basta la medicina, devi anche tenerlo a casa a letto e fare in modo che recuperi. Lei vede qualche possibilità in questo senso, ma Masciandaro, per chiudere, oppure ritiene che a questo punto in Germania stia passando l'immagine che Draghi sta salvando, questo è veramente assurdo, le banche del sud Europa, i paesi del sud Europa, fino adesso gli stati hanno salvato soprattutto le banche tedesche e francesi, però... La speranza dobbiamo sempre averla. Se io metto insieme queste reazioni con quello che ha ricordato lei poco fa in termini di politica sui migranti, dovrei essere molto pessimista. Allora evito di metterlo insieme e continuo a sperare che Draghi non stia giocando da solo contro il muro. Sì, qualcuno mi dice: guardi che giocare con la palla contro il muro si chiama squash. Sì, ma anche nello squash di solito uno si è in due almeno, non si è da soli, capito? Per cui vorremmo essere in due, invece qui c'è un silenzio e un'incapacità, non è il silenzio, è l'insipienza a mio avviso della classe politica europea, che sai, il silenzio può anche essere una cosa importante, quando stai zitto perché non sai cosa dire è diverso, sei insipiente. Grazie al professor Grazie. Donato Masciandaro. Traffico, poi la borsa e appunto non sulle rotte dei migranti ma sulla Grecia al bivio. Focus Economia. Allora, la borsa, sì, non posso continuare su Draghi, insomma, mi sembra che, almeno dal punto di vista dei nostri ospiti, certo che uno potrebbe anche lanciare i soldi con l'elicottero, tornando all'immagine di Friedman, poi ripresa da Ben Bernanke, ma sono abbastanza d'accordo con il professor Bruni, ci sono già i soldi lanciati con l'elicottero, il problema è che li hanno raccolti solo le banche e non c'è in questo momento un motivo per investire, un piano forte di investimenti. Dopodiché, ripeto, uno può pensare che Draghi sbagli, basta non dire fra un po', di fronte all'immobilismo, all'insipienza delle politiche economiche europee, capaci solo di ricordarci lo 0,1 di scostamento dal deficit e di prendere atto che ogni paese ha fatto come cavolo ha voluto sulla rotta dei Balcani, non sentirsi dire: beh, Draghi ha sbagliato perché l'effetto non c'è stato. In quel caso c'è proprio... ci sarebbe colpa e dolo, e mi riferisco alle dichiarazioni che stanno arrivando dalla Germania. Allora, la borsa invece poi si è molto raffreddata, lo scalping lo chiamano in maniera in inglese, insomma c'è qualcuno che si è bruciato lo scalpo scommettendo su aumenti ulteriori. E allora, ciao Condi, Radio Corri, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Che la spiegazione più in voga qual è in questo minuto? Anche se la Pop Milano ha chiuso con un +4,90, Unicredit +2,30, Mediolanum +1,5, Mediobanca +1,5, Ubibanca +1,20, Intesa +1,1, Anima Holding +0,90, come la Pop Emilia Romagna. La borsa persa su 0,5 punto percentuale, peggio ha fatto Parigi -1,70, Francoforte -2,30, e Londra, che è fuori da questi giochi, -1,80%. La spiegazione, visto che guadagnava Milano oltre il 4% dopo la notizia? Ma guarda, essenzialmente all'inizio la borsa si è concentrata sul taglio dei tassi, quindi sulle misure che sono state subito annunciate. Poi si è entrati nel dettaglio della conferenza stampa di Draghi, e soprattutto gli operatori sono rimasti colpiti dal taglio sulle stime dell'inflazione per il 2016, da +1% a +0,1%, e siamo soltanto a marzo, il che significa che insomma le prospettive sono abbastanza abbastanza preoccupanti per i prezzi, e alla luce appunto di queste stime sulle borse sono iniziate le vendite. C'è da dire che però le banche sono un po' avanzate in tutta Europa, quindi sostanzialmente oggi il trend è stato comprare le banche, magari vendere quei titoli che erano un po' avanzati nelle ultime sedute. Per faccio un esempio, i petroliferi o il lusso. I petroliferi e il lusso, sì, infatti vediamo che il lusso Hughes Net-a-Porter meno 5,20, Moncler meno 3,70, che erano ben cresciuti, e i petroliferi Saipem meno 3,90, Eni meno 3,40, Tenaris meno 3,40 anch'essa. Tenaris non è un petrolifero ma lavora col mondo del petrolio. Ferrari meno 3,40%, CNH meno 3,30, Fiat Chrysler meno 2,90, Prysmian meno 2,70, Telecom meno 2,5 come Mediaset, Finmeccanica meno 2,20, Ferragamo meno 2%. Quindi ci sta dicendo che quanto già ipotizzavano i nostri ospiti, e cioè che proprio l'entità delle misure e le preoccupazioni di Draghi sull'inflazione, e l'aver detto che l'assenza di inflazione, e aver detto che questi tassi bassissimi e minimi storici resteranno anche dopo l'acquisto, dopo la fine dell'acquisto di titoli di Stato, cioè del QE, questo è stato letto come, oddio, la situazione è peggiore di quanto immaginassimo? Sì, diciamo che il concetto è essenzialmente questo. Sicuramente il fatto che la crescita si presenterà asfittica anche quest'anno e che l'inflazione sarà molto bassa è una cosa che preoccupa i mercati, anche perché poi diciamo che dopo questo ulteriore colpo di bazooka, se vogliamo chiamarlo, poi non è che rimangano molti altri colpi in canna, ecco. Quindi sostanzialmente sì, che il timore, diciamo, che abbiamo palesato a inizio programma, cioè la trappola della liquidità, se il cavallo non beve quanta acqua gli puoi dare, e soprattutto il fatto che a questo punto uno possa, il famoso moral hazard, cioè possa dire attenzione, qui hai ancora poche cartucce nella tua pistola, nella tua bazooka, l'arma non mi interessa. Gli Stati Uniti non hanno dato una mano, meno 0,70% in questo momento il Dow Jones. Ha ragione però l'ascoltatore che dice chissà dove sarebbe l'euro senza Draghi. In effetti l'euro oggi è 1,11, sarebbe ancora 1,30, 1,38, 1,40. Migliori e peggiori in assoluto oggi sulla borsa. Allora, VM Capital più 9%, Go Internet più 7,70 come sintesi, Geox più 6,20, Société Générale più 5,50, fronte opposto, Prima Industria meno 11, Astaldi meno 8,70. Ci sono novità su Astaldi? Ma diciamo che Astaldi ha dato il bilancio, c'è un utile in linea con l'anno scorso di 81 milioni, però preoccupa molto il tema del debito, perché Astaldi ha un debito di 1 miliardo, sta cercando di ridurlo, perché ovviamente è un debito consistente, soprattutto se rapportato al suo margine operativo lordo, però le dismissioni non procedono come si era previsto, e ovviamente il mercato è preoccupato da questa cosa. Ceramiche Richetti meno 8,50 e Prelios meno 6,80%. Oggi ci sono circolate anche voci sulle generali, dal comitato nomine dei generali. Domani dovrebbe uscire infatti l'indicazione di un nuovo, lo chiamano Group CEO, insomma chi prenderà il posto di Greco, Philippe Donné, che è oggi la guida di Generali Italia, mentre Alberto Minali dovrebbe essere direttore generale con un perimetro di deleghe anche sulla finanza. Intanto grazie a Ciò Condina, continua invece la nostra inchiesta sulla Grecia del Bivio, e continua anche con Valeria De Rosa. L'Europa al Bivio Greco con Radio 24 nel cuore della crisi. Allora, mentre oggi, lo dico senza battute, celebriamo, tra virgolette, la chiusura definitiva della rotta dei Balcani occidentali, lo ha riferito lo stesso Tusk, il Presidente del Consiglio europeo, irritando moltissimo Tsipras, che ha detto la rotta dei Balcani occidentali è stata chiusa a causa di azioni unilaterali di alcuni paesi, Austria in primis, Slovenia, e poi invece Croazia e la Serbia e Macedonia, che non sono nell'Unione Europea. E Tsipras aggiunge, il leader greco, l'Unione Europea non ha futuro se va avanti così. Beh, penso che sia incontestabile. Se ogni paese si fa i casi suoi, e dobbiamo essere europei solo quando c'è da analizzare il deficit al 2,9, al 3%, è la strada maestra per andare a schiantarsi a livello di Europa. Comunque, Ankara ha detto che ne riprenderemo migliaia, non milioni. Ma noi stiamo andando, ma noi con Valeria De Rosa abbiamo in questi giorni anche analizzato la situazione delle finanze greche. Ieri era abbastanza ottimista il vice ministro alle finanze. L'Unione Europea ha sì stanziato 750 milioni di euro fuori di Atene, ma per i prossimi anni stanno arrivando col contagocce. Si sostiene che la crisi possa costare 600 milioni di euro, lo 0,6% del PIL ad Atene. Sono 40.000 i migranti profughi bloccati in Grecia. Pensate che nel 2015 sono sbarcate 1 milione di persone. Fate il raffronto con le dimensioni della Grecia. E ripeto, Valeria De Rosa ha intervistato poco fa il sostanzialmente presidente, capo economista della Hellenic Federation of Enterprises, della Confindustria ellenica, Michael Masourakis, partendo proprio dallo stato attuale delle condizioni della Grecia economiche e delle privatizzazioni. We are through a very prolonged period of duress. Stiamo attraversando un lungo periodo di difficoltà. La disoccupazione è passata dal 26 al 25%, ma la riduzione è ancora troppo lenta. Sono già 6 anni che gli investimenti vengono ridotti e la situazione del paese non è buona. Il paese ha anche dei problemi di instabilità politica. Credo che da qui in avanti sia importante lasciarsi il passato alle spalle e portare a termine la prima parte del programma. Questo è fondamentale per far rinascere la fiducia. Bisogna capire quali siano i vantaggi di questo piano e farli capire all'amministrazione greca e alla comunità economica. Questo programma, infatti, non servirà solo a far tornare in ordine i conti pubblici, ma anche a creare un ambiente favorevole per le imprese. Attuare questo programma è l'unico modo che abbiamo per attirare gli investimenti. Infatti, non potendo incrementare gli investimenti pubblici e la spesa pubblica, non resta che creare un ambiente che riattragga flussi di capitale nel paese. To increase private investment, you need to fix an environment which is conducive to capital flowing into the country. Cosa ne pensa delle privatizzazioni e in particolare di quella del Pireo? Nel 2006, quando i cinesi hanno fatto il primo investimento nel porto del Pireo, lo hanno reso uno dei principali hub d'Europa. Hanno fatto un'operazione molto redditizia. Se si guardano i conti della cinese COSCO e quelli dell'autorità portuale greca che gestisce l'altra parte del Pireo, sono come la notte e il giorno. Uno fa profitti, l'altro perdite. Perciò io credo che la decisione di privatizzare sia stata giusta. I cinesi sono stati al posto giusto nel momento giusto, vista la loro lunga esperienza, e infatti sono riusciti a far diventare il Pireo una porta di ingresso per le loro merci in Europa. E se il governo dovesse decidere di privatizzare anche le ferrovie, loro sarebbero le persone adatte. Sarebbe un investimento buono sia per loro che per il paese. It's a very good investment for them, it's a very good investment for the country. E domani torneremo anche su questo, perché insomma, le due vicende, un'Europa incipiente sul fronte delle politiche economiche e invece assente sul fronte delle politiche migratorie, è tutto quello di cui non abbiamo bisogno. Ma intanto comunque l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi, e per aggiungere pioggia al bagnato ci sarà anche la poco invidiabile classifica di Focus Economia sui 5 sprechi della nostra pubblica amministrazione. Radio 24, la passione si sente.